Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Questo è lo spettacolo Vie delle Donne di e con Elena Guerrini. Ma poi io all'università il mio professore, Umberto Eco, lui ci diceva che la lezione di semiotica non iniziava alle 9:30 del mattino di lunedì in via Zamboni 33, ma iniziava ben prima. Iniziava quando si prendeva il treno per andare all'università e semiotica era tutto, non era quella scritta sui libri, ma la semiotica era il treno, la persona che incontravi in treno. E ci diceva di guardare tutti i segni e seguire tutti questi segni, quando si attraversava la strada, se c'era un manifesto, qualcosa nella vetrina. E quello per lui era bella semiotica. Ci diceva, lasciatevi guidare dai segni, non importa se poi arrivate un po' in ritardo, a lezione, ma solo così svilupperete il sesto senso dell'intuizione, il sesto senso che potrà portarvi alla creatività, il sesto senso della semiotica. Io partivo da Firenze per andare all'Università Bologna, mi fermavo in treno, parlavo con la signora, poi prendevo l'autobus, parlavo col bigliettaio, parlavo con l'autista, attraversavo la strada, guardavo i segni, vedevo il semaforo, mi suonavano. Poi il senso che sviluppavo però era il senso di colpa per essere arrivata in ritardo alle lezioni, perché non arrivavo in ritardo di un quarto d'ora, no, ma anche di mezz'ora. Quindi no, scusate che... Mi tolgo le scarpe. Io quando sono a teatro mi tolgo le scarpe. Quando sono sul palco. Grotowski, un altro mio maestro, con cui facevo i seminari di teatro, mi diceva: il teatro è sacro. Quando si va sul palco bisogna togliersi le scarpe. E allora ecco, fate pure anche voi. Poi io scrivo, Fermatissima, si dice molto femminile del sì, cinema, ma racconto. soprattutto teatro, però anche il cinema mi garba. E sai che, no, tra l'altro, pensavo sinceramente che tu Qualche non volta mi venissi questa sera. addormento. Sì, Fabio, guarda, io ci tenevo Sul divano, tantissimo, ma mi è però ora che ci capitato siete voi tutto un non mi contrattempo addormento. dietro Voi, se però l'altro, un volete, contrattempo che fa che sdraiate, tempo fate che un fa, sonnellino, mi era potete. Ora scaduta risistemo l'assicurazione il della copione, macchina e non intanto. avevo soldi per ripagarla. C'era lo sciopero dei treni, mi avevano rubato la bicicletta, Ah, poi non so, questa è poi meno l'importante. male che mi sono iscritta a BlaBlaCar e mi ha dato un passaggio Allora, questo Marco è il Bassetti. copione. Da Capalbio direttamente è arrivato qua in via Mecenate, Sì, e no? non solo, sì. Magari chissà, mi desse una raccomandazione, dici? Ma dai, che su, abbiamo amici in comune. Sì, guarda, c'è un sacco di amici in Senti, mi comune. puoi sistemare il Matteo copione di per Firenze, piacere? E se poi Renzi, magari sbaglio qualcosa me lo riesce. Franceschini di Ferrara, poi vabbè, Marco Bassetti No, di questa è una Bambio, prova, non è che vanno, Roberto cioè, non avete Pavesi, pagato quello il biglietto che dello vende le spettacolo, è una pulze prova. solari Io a faccio con Milano, voi. lì vicino a Parco Solari, poi al Mogus, il sindaco di Bogotà, e poi forse pure Pippo di Savona, no? Mi sa che lo conosci, andavate a scuola insieme, Mi no? ricarica E anche il anche altri telefono. amici a New York. Ma ho letto che i tuoi primi anni a New York, che sono La stati fatica molto, per molto questo duri, lavoro. sono molto difficili, tu avresti avuto una Quando cartolina nella tua dicono stanza di Frida Kahlo, degli attori, no? In questa donna televisione, straordinaria, questa sono... pittrice straordinaria, appiccicata alla parete e che ti consolava molto. Allora, io volevo mostrare un autoritratto di Frida Kahlo e se tu hai voglia di raccontare Scrivo perché ti e consolava racconto. molto. Scrivo e Eccola qua. racconto. Ma guarda, nel mio appartamento a New York, quando ero lì in tournée, avevo proprio in camera, davanti al letto, un autoritratto di Frida Kahlo. Lei si è fatta moltissimi autoritratti e guardare Il quel teatro, quadro mi diceva incoraggiava Grotowski, e mi consolava. non sono le Quello che luci, mi non incoraggiava sono le era che quinte, lei, come me, aveva non sono sofferto i velluti. tantissimo. Era Lui lì col diceva cuore in che il mano teatro e mi è guardava e azione. mi diceva: Il ce la teatro farai. è Da lei vedevo relazione, creatività, onestà, abitazione, consapevolezza e costellazione, anche tanta tantissima improvvisazione, autostima. L'immagine di questa creazione, donna, nonostante informazione, avesse avuto gravi disgrazie, narrazione, ha deciso di essere recitazione, vittoriosa, guerriera, soddisfazione, e anche se non aveva la costellazione, bellezza tradizionale, si sentiva assicurazione, imitazione. bellissima. Diceva: questa sono io, accettatemi così, Illuminazione, ce sono una l'abbiamo. bella come Stai recitando adesso. Sì, Colazione. recitando. Non mi piace dirlo perché io non recito, io sono quando racconto qualcosa. Però infatti anche la parola spettacolo. C'è qualcuno di voi che c'ha un elastico? Così, ma per me l'elastico è una creazione, grazie, ciò che faccio, perché poi quando scrivo e quando racconto, io vado in giro e magari vedo delle cose e ve le racconto, ed è bellissimo. Per esempio anche questa nuova avventura di Via delle Donne, di cui poi ti parlerò. Sì, sì, perché so che hai molto da fare in questo periodo. Sì, e sono felice di fare tante cose, ti capita tutte insieme. Sto scrivendo, ultimando il testo di Via delle Donne. Scrivo questa creazione, sui libri, sui giornali. Mi figliolo l'altro giorno si è soffiato il naso con una citazione di Natalia Ginsburg. Ma si dice Ginsburg o Ginsburg? Io vedo te e viene a Non so, quando per esempio leggo il giornale, mi viene in mente una parola e ce la scrivo accanto. Poi magari scrivo da una parte, scrivo da un'altra, e sempre Umberto Eco ci diceva, non copiar rubando, ma copiar creando. Non copiar rubando, ma copiar creando. Non copiar rubando, ma copiar creando, perché poi ti viene in mente una cosa da un articolo di giornale, da un'altra. No, non copiar rubando, ma copiar creando. Sarebbe felice, no, Umberto Eco, che te ridi mentre dico questa cosa, perché lui diceva, ditelo fuori dall'università, che alle mie lezioni ci si diverte, che si ride, sennò tutti pensano Umberto Eco, no? Barba. Allora, io inizierei una prova con voi, ma ho bisogno di qualcuno che mi faccia delle foto, perché sto partecipando a un bando e ho bisogno di foto dello spettacolo inedito. Me ne fai te le foto laggiù? Qualcuno col cellulare? Perché potete tenere acceso il cellulare in questo spettacolo, assolutamente, connessi a internet. E vi chiedo, chi è che può farmi un video? Un video. Chi è che c'ha cellulare connesso, gli diamo per mandarmi delle musiche? Perché le volevo studiare con voi. No, non siete internetizzati. Allora me le mettete, Michele? Allora, io pensavo per questo pezzettino, Michele, una musica un po' dolce. Qualcuno che può farmi delle foto non c'è? Sì, me le fai te, poi me le mandi allora. Grazie. Affronterò tutte le mie paure e le ipocondrie. E con gioia le risolverò. Risorgerò dai turbamenti che da oggi incontrerò per la mia via. Mi difenderò dalle ingiustizie e dagli inganni del mio tempo. Mi libererò dalle ossessioni delle mie manie. Accoglierò tutti i miei sbalzi d'umore. E guarirò da tutte le malattie, perché sono un essere speciale. Ed avrò cura di me. Mi doterò di conoscenza, di voce e di pazienza. Mi salverò da ogni malinconia, perché sono un essere speciale. Ed avrò cura di me, perché sei un essere speciale. Ed avrai cura di te, perché sei un essere speciale. Ed avrai cura di te. Ve la ricordate? La cura di Franco Battiato, no? Ecco, questa l'ho un po' cambiata, è Battiato Guerrini Sgalambro, perché noi la volevamo mettere all'inizio dello spettacolo con Michele, poi l'abbiamo riascoltata più volte alla tecnica e non ci convinceva di metterla all'inizio dello spettacolo quando arriva la gente, e allora riascoltandola, insomma, io gli ho scritto una lettera a francobattiatolibero.it e gli dico, Franco, scusa, tu dici, ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo ed avrò cura di te. Cioè, Franco, ti proteggerò ed avrò cura di te. Io, Franco, dal 97 che questa canzone è uscita, ancora qualcuno che mi proteggerà non l'ho trovato. Qualcuno che avrà cura di me nemmeno, ma magari neanche lo voglio. Voi l'avete trovato? Cioè, non lo so. Poi gli ho scritto ancora, Franco, lo so che sono un essere speciale, ma tutte le mie paure le devo affrontare da sola se le voglio superare. Eppure turbamenti e figurati gli inganni, però ecco, a me quello, non lo so a voi, che mi ha dato proprio più fastidio è quando dice gli sbalzi d'umore. Ecco, cioè, innanzitutto pensa anche tu agli sbalzi d'umore, Franco, gli ho detto, no, poi non lo so. E poi gli sbalzi d'umore io i miei me li accolgo e me li vivo, e semmai devo ringraziare Maya Cornacchia, la mia analista. Vabbè, paghi la seduta, però poi ti aiuta, dice che vanno accettati. Però ecco, a me quello che proprio non sopporto è quando dici, Franco, ti proteggerò dai fallimenti che per tua natura attirerai. No, ma come per mia natura? Cioè, e poi quando dice ti donerò il silenzio e la pazienza. Cioè, la pazienza va bene, ma il silenzio, ma perché? Cioè, io voglio voce. Voce e musica. Grazie. C'era una volta una principessa, normale, coi brufoli, la pancia e la cellulite. La prigioniera era in un castello ed era sorvegliata da un drago feroce. Aspettava che il principe azzurro la liberasse per sposarlo, amarlo e vivere per sempre felici e coltelli nel suo trilocale in affitto economico in via Cesare Correnti, con terrazze e due bagni. E il weekend nella villetta di famiglia allegnate sul ventre. Il principe azzurro, sbiadito e con le mani sporche, era nel parcheggio che aggiustava la sua moto, una BMW 500. Poi arrivò con due caschi. Entrò. Adesso mi metti qui la musica. Secondo me ci sarebbe bene quella di un cantautore italiano, tipo di Vasco Rossi. Non so. Sì. Il principe arrivò con due caschi. Entrò. Principessa, principessa, dove sei, principessa, principessa, principessa, dove sei, principessa, principessa, dove sei, principessa, principessa, dove sei, principessa. Principessa non c'era più, era andata via. Qualcuno diceva che era matta, altri che aveva i grilli per la testa o le sue cose, con la menopausa precoce. A volte le donne matteggiano, anche se sono delle principesse. La ragazza era andata via, era proprio scappata con tutte le sue cose, nella sua macchina scassata. Era scappata perché la sera prima una sua amica le aveva mandato via WhatsApp le istruzioni per fare fuori il drago che la teneva prigioniera. Liberati da sola, il drago, sono le tue paure, le tue insicurezze. Non hai bisogno di nessuno che ti venga a liberare. Se davvero vuoi uscire di prigione, esci subito. Fallo con la voce. Diventa una canzone. Poi, nell'altro WhatsApp, le mandò tante parole, tantissime parole. E le parole erano gratitudine, fede, sorella, mistero, futuro, legge, amiche, viaggi, studio, diritti, storie, memorie, strade, pillola, automobile, emozione, risate, bellezza, casa e tante altre parole. E scrisse, non eliminarle, ma tienile con te, mettile nel salvaschermo, valgono più del denaro, valgono più degli assegni, valgono più della carta di credito. Ora se volete da WhatsApp mandare una parola bella a qualcuno a cui volete bene, potete farlo anche qui mentre stiamo facendo lo spettacolo. Lei tenne queste parole nel salvaschermo, e le parole erano bicicletta, dignità, gioia, poesia, luce, cura, fantasia, impegno, conoscenza, e poi lacrime, obiettivi, resilienza. E la donna iniziò a camminare in questo mare di lettere e di parole, inciampava sulla S di scienza, saltava sulla D di determinazione, abbracciava la parola emozione, si arrampicava sulla A di autostima ed era pesce, uccello, canzone, stella marina e goccia d'acqua, balena e sirena, era la forza dell'acqua e la potenza della terra, era radice e nuvola. La donna, con tutte queste parole, non diventò una principessa. Si trovò un monolocale in affitto di 30 metri quadri, cambiò lavoro e ogni volta che usciva incontrava una principessa prigioniera. In attesa del principe sbiadito, inoltrava i WhatsApp con tutte le parole. E così tante donne, chiuse nelle case, nelle paure, si liberarono con l'aiuto di altre donne e di tutte le parole. Iniziarono a volersi bene da sole. Erano matte davvero. Ma invece che principesse, diventarono dottoresse, fisiche, maestre, professoresse, biologhe, direttrici di banca, direttrici di teatro, vigilesse. No, magari vigilesse no. Storiche, biologhe, politiche. E una volta scomparse, a tutte queste donne dedicarono vie, strade, piazze. E ognuno che passa da quella via, da quella strada, da quella piazza, vedendo il nome della donna, si ricorda la fatica che ha fatto per arrivare fino a lì. C'è una cosa non vera in quello che ho raccontato, una cosa che non esiste. Non esiste il principe? Esiste, è lui. Anzi, se volete fotografarlo, il principe. Ah, certo, fa una foto. La principessa, eccola. Il drago non esiste? Sono solo le tue paure? È lui il drago. Cos'è che non esiste? Un trilocale economico invece di essere corrente a Milano. Le guardie non esistono. Le guardie non esistono, no. Sapete cos'è che non esiste? O ci sono pochissime? Le vie? Le vie dedicate alle donne. Se pensate alla via dove siete nati o alla strada che avete fatto oggi, questa mattina, e pensate a quante sono le vie delle donne dove siete passate, sono pochissime. Maggio 2017. Vado a Orbetello, all'ufficio anagrafe, a fare la mia nuova carta d'identità. Paolino, che veniva alle scuole medie con me, mi fa nome, lo sai, Elena, cognome Guerrini, professione attrice, dico io. No, ma di lavoro, dico attrice, autrice. Cioè scrivo e racconto. Scrivo e racconto. Attrice, autrice. Sì, ma insomma, che vuol dire? Attrice, autrice. Ma sì, ma non è una professione. Dico attrice, autrice, come Paolini, ma coi capelli. Paolino chi? Mi fa lui. Quello che c'ha al ristorante in via Marzala a Manciano? Dico, no, guarda, vabbè, attrice, autrice, scrivo e racconto. Ma io non ci ho mai visto Elena in televisione. Dico, guarda, scrivi attrice, autrice, non si può. Ma come non si può? No, non si può, non è una professione. Attrice di prosa va bene, mi fa lui. Dico, ma sì, va bene, attrice di prosa. Ah, ma allora fai teatro. Dico, sì, metti attrice di prosa, va. E che commedia fai? E io dico, Vie delle donne. E chi l'ha scritta? Io sono attrice, autrice. E lui dice, no, ma guarda, perché sai, anch'io lavoro con la compagnia di teatro amatoriale dei dipendenti delle ferrovie, ci chiamiamo gli Acari della Polvere e noi facciamo la locandiera. La mia fidanzata fa Mariandolina e io faccio il marchese di Ripafratta. Vieni, il teatro è tutto pieno. i biglietti li vende dall'elettricista. Dico, no, guarda, io faccio Via delle Donne, il teatro non lo so se è tutto pieno, i biglietti, boh, e vabbè. E semplicemente ci ho mai visto in televisione, dico, ma come, a maggio ero da Fazio, non ho mai visto, no, guarda, io la domenica sera guardo lo sport. Dico, ma guarda, te vai da Fazio, manco ti vedono dal tuo paese. E poi mi dice, via? Io dico, via Paolieri 17. E lui mi dice, io abito in via Fattori e la mia fidanzata, Mariandolina, abita in via Raffei. I miei genitori abitano in via De Witt e quando ci sposeremo, io e Mariandolina, andremo a abitare in via Telemaco con Signorini. E io dico, tutti uomini. E le donne, chi se l'è dimenticata? Lui dice, come chi se l'è dimenticata? Dico, sì, hai detto tutti uomini, tutti i nomi di pittori e le pittrici. E allora lui guarda nello stradario, dice, in effetti è vero, però vabbè, c'è Via della Salita, quella vicina alla Coop, che è femmina, pure Via della Fatica, poi vabbè, c'è Via Aurelia, Via Maremmana, sono nomi femminili. Dico, vabbè, vabbè. E poi dice, però è vero. E dico, ma pensa quanto una via dedicata a una donna o meno può influire sull'autostima, se magari io avessi abitato in una via dedicata a una pittrice, tipo via Frida Kahlo o via Artemisia Gentileschi, magari sarei diventata una pittrice e non attrice, magari voi sareste venuti a vedere la mia mostra d'arte di quadri, no, qui a teatro nell'Oliveto. Allora esco dall'ufficio anagrafe con la mia nuova carta d'identità, valida fino al 2027, e con la consapevolezza che nel mio comune, nel 2017, non c'è neanche una via dedicata a una donna. Mi siedo sulle scale del Duomo a Orbetello, vedo gli uccelli sulla laguna, è 1:30, perché io poi vado negli uffici sempre quando stanno per chiudere, sempre per quella cosa del fuso orario, delle donne, no? Che arrivi sempre all'ultimo. E vedo ragazzi che escono da scuola con gli zaini colorati, i leggings colorati, i capelli colorati, i sorrisi. E penso che io quando andavo alle scuole superiori, il professor Filippo Polisani, alle magistrali, a Grosseto, voleva che noi ragazze andassimo a scuola sempre con le gonne. Diceva, mettetevi le gonne perché siete donne e dovete portare in giro la bellezza con le gambe. Io però mi ribellavo e tutti i lunedì andavo a scuola con la tuta o coi jeans e volevo che tutte le mie amiche si mettessero la tuta e i jeans anche loro. Allora lui arrivava in classe, in terza C, guardava, vedeva che tutti ci sono i pantaloni, arrivava al mio banco, mi faceva, Guerrini, è colpa tua, sei una agitatrice! Guerrini, sei una agitatrice! Guerrini, sei una agitatrice! E poi faceva, via Elena Guerrini! Via Elena Guerrini! Via Elena Guerrini! Ma non era il nome di una strada, sì, era un'esortazione, sì. Fammi uscire di classe! E allora io mi sedevo lì nel corridoio, accanto al termosifone, guardavo le nuvole. Pensavo che da grande avrei fatto la rivoluzione. Ma subito la volevo fare, la rivoluzione. Gennaio 2009. Maria Piercolini, la professoressa di geografia della seconda C dell'Istituto per il Commercio Giovanni Falcone, a Roma, porta in gita la sua classe a vedere i monumenti della città eterna. A gennaio ci sono ancora le vetrine illuminate per Natale con la neve finta, che a Roma la neve non c'è quasi mai, no? A un certo punto Sara, una ragazza arrivata dal Maghreb, che parla un po' romagrebino, si siede e dice, professore, sono stanca, professore, c'ho caldo, professore, c'ho freddo, professore, ma perché siamo passate tutte nelle vie dell'omini? Le donne, chi se le ha dimenticate? La professoressa ci pensa e dice, Sara, brava, hai colto nel segno, io non ci avevo mai pensato. E da quel momento, dal gennaio 2009, Maria Piercolini inizia a pensarci. Ci pensa mentre guida la macchina, ci pensa quando va alla riunione, al consiglio di interclasse, ci pensa mentre fa la spesa, ci pensa mentre sale le scale, mentre in terrazza annaffia i fiori, mentre prima di cena stira i panni, ci pensa mentre cucina. Poi, dopo che ha cenato con la famiglia e i figli sono a letto, si siede, accende il suo computer in cucina e inizia a fare un censimento, a vedere in tutta Italia quante sono le vie dedicate alle donne. Nel 2009 erano pochissime, sotto l'1%. Lei, dalla sua cucina, vedeva tutte le luci accese e pensava che erano donne che si mettevano a studiare in cucina dopo aver messo a letto i figli, pulito la casa, lavato i piatti. E lei allora attacca la lavatrice, Candy, programma 4, e raccoglie tutti i nomi delle città dove non c'è neanche una via dedicata a una donna. E dal giorno dopo, che era martedì e che era il suo giorno libero, inizia a telefonare, telefona a tutti i sindaci delle città dove non ci sono vie dedicate alle donne, e se il sindaco ha da fare dice richiamerò più tardi, e se riunione dice richiamerò quando è finita la riunione, e chiede come mai in quel paese non c'è una via dedicata alle donne. Dicono ma non lo sappiamo, ma che importanza ha questo? Poi crea un gruppo su Facebook, cercatelo se avete il cellulare, accendetelo, toponomastica femminile, un gruppo che adesso ha raggiunto 9.000 persone, e con queste donne inizia a creare una rivoluzione senza denari né bandiere. È come un sasso che lanciato nello stagno tocca le onde, il fango. Lei lancia questa idea e si ritrova tutte le domeniche pomeriggio a censire tutte le città d'Italia dove non ci sono vie dedicate alle donne. All'inizio la prendono per matta, le dicono lascia stare, addirittura un giornalista dice che lui le donne non gli darebbe le vie, le metterebbe, ma tutte sulla strada. Lei lo cancella, quel giornalista, da Facebook e dalla sua vita. E continua la sua rivoluzione. Propone ai sindaci che iniziano a riceverla per l'8 marzo non mimose ma piazze, non fiori ma vie. Propone ogni città di dedicare le vie a 3 donne, una donna del luogo, una partigiana e una scrittrice. Pian piano iniziano ad ascoltarla e si crea un movimento. E allora, quando ho conosciuto questa storia, la storia di Maria Pia Ercolini, quando anch'io ho iniziato a essere parte di questa rivoluzione, mi sono iscritta al gruppo su Facebook e ho chiesto a tutte le persone che incontravo a chi volevano dedicare una via, una strada, a quale donna. Tu a chi dedicheresti una via, una strada, una piazza? E tu? Frida Kahlo. Frida Kahlo, tu? Montessori. Alla Montessori, tu? Elena Guerrini. Spero di no, perché bisogna essere morti almeno da 6 anni per una via dedicata. Per cui... E allora ho iniziato a chiederlo a tutte le mie amiche a chi volevano dedicare una via, una strada, una piazza. Per esempio a Marina, una mia amica, che lei abita a Napoli, si chiama Marina, mi ha invitato per il suo onomastico, che è il 18 giugno, Santa Marina, no? Mi ha invitato nella sua terrazza e mi ha raccontato la storia della santa di cui porta il nome. Lei dice che la piazza lei la dedicherebbe a Santa Marina, una santa che ha vissuto tutta la vita vestita da uomo. E si sono accorti che era una donna solo dopo morta, come la di Oscar, dico io. Allora, però quella sera avevo bevuto troppi limoncelli, la storia non me la ricordo bene, allora gli ho chiesto di mandarmela, di scrivermela via mail. Ve la leggo? La volete sentire la storia di Santa Marina? Qualcuno la conosce? Allora ve la leggo. Se c'è qualcuno che col cellulare mi può illuminare? Un po', giusto un po' di luce. Cara Elena, ti mando la storia che mi hai chiesto. Qui è caldo il giorno, ma la sera in terrazza coi limoni si sta bene. A proposito, ti ho mandato il limoncello. Ecco la storia, raccontala. Beata te che continui a fare teatro, sei testarda. Io invece insegno ai quartieri spagnoli, ma insegnando imparo. Grazie. Vissuta nel VII secolo d.C. e raccontata in molti porti di Mediterraneo, la madre muore di parto. Il padre decide di entrare in convento e porta con sé la piccola, dicendo che è un bambino col nome Marino. la veste con abiti maschili. La vita prosegue tra messe e preghiere. Quando il padre muore, Marino prende i voti e diventa frate. Frate Marino, umile e attento, devoto e solerte, e bravo a guidare il carro coi cavalli. Se c'è bisogno, arriva fino al paese, lì vicino al mare, con il carro. Compra all'emporio quello che serve per il convento. Stoffa, stoviglie e sale. Parla a lungo con la ragazza Mora, figlia del padrone della bottega. Marino deve ripartire, ma arriva il buio e il temporale. Marino non può tornare in convento. Mette i cavalli nella stalla, cena e dorme nella locanda sopra l'emporio. Nella stanza accanto alla ragazza, in quella notte di tempesta, anche dei soldati trovano rifugio nella stanza della locanda. All'alba, Marino nutre i cavalli e riparte per il convento. Prega e ringrazia lungo la strada, come sempre. E sorge il sole. Non era ancora al tramonto del giorno successivo quando l'abate lo chiama. Ha infangato il nome di Dio e del convento, frate Marino. Frate Marino è accusato di violenza carnale nei confronti della ragazza della locanda, avvenuta la notte in cui ha dormito lì. Immediatamente viene allontanato dal convento con le sue poche cose: un bastone, una tazza, una coperta e il suo libro di preghiere. Frate Marino si rifugia in una grotta vicino al convento e continua a pregare con le ore scandite dal tocco delle campane. Piove, c'è il sole, e dopo 9 mesi, in piena estate, gli portano un bambino nella grotta. È il frutto della violenza di quella notte tempestosa. Lui lo cresce, questo figlio, come un figlio suo. Si nutrono di erbe, radici e di carità. I pastori donano il latte e Marino ringrazia i pastori e la provvidenza e perdona quelli che lo accusano e cura il piccolo. Prega, ringrazia e perdona. Prega, ringrazia e perdona. Dopo 3 anni, i frati, convinti del pentimento, della gratitudine e della fede di frate Marino, lo riaccolgono in convento, lui e suo figlio. Vivrà in una cella piccolissima e fredda, in un giaciglio di pietra. Lo obbligano a fare i lavori più umili, ma lui continua a pregare, in silenzio e in contemplazione. Passano gli anni, Marino si ammala e un pomeriggio muore. I frati, dopo la preghiera, nel momento del lavaggio e della vestizione, si accorgono che per essere uomo, quel frate aveva una cosa di meno e 2 cose di troppo. O forse era diventato donna dopo morto? Era un miracolo? Una punizione divina? E capiscono perché non gli avevano mai visto crescere la barba. Increduli e stupiti, la vestono con un saio bianco, virginale. Tra le mani le mettono un asfodelo fiorito. Pregano e invocano il perdono divino per il loro errore. In quel momento una tempesta arriva sul villaggio all'improvviso. La ragazza della locanda, in preda ai demoni, confessa che l'uomo con cui dormì quella notte di 3 anni prima era un soldato e non frate Marino. Il figlio, quindi, era del soldato. Marino si era preso cura di un figlio non suo e una colpa che non aveva. Il frate superiore prende il libro delle preghiere dalla cella di Marino per metterlo accanto al frate per il suo viaggio in cielo. Lo apre. Trova uno scritto autografo del frate nella prima pagina. C'è scritto: «Sono una donna, ciao, non fate troppi pettegolezzi». Che fatica diventare sante! E questa è una delle storie che vorrei raccontare in quello che sarà lo spettacolo. Oppure, per esempio, un'altra storia. Tu prima hai detto una via la dedicheresti a? Alla Montessori. Alla Montessori. Io invece una via la dedicherei alla Pizzigoni, la Giuseppina Pizzigoni. L'ho scoperta andando in taxi. Io poi, quando dicevo a tutti a chi la dedicheresti una via, una strada, una piazza, a un certo punto ero a Milano davanti all'università statale, dovevo andare a fare una visita medica, chiamo il taxi, arriva una taxista e dico: in piazza Camilla Cederna, e vedo che c'è la via dedicata a una donna, e allora inizio a parlare con questa signora che guida il taxi. Lei mi dice che c'è un'altra via a Milano dedicata a una donna ed è via Giuseppina Pizzigoni. Io non sapevo chi era Giuseppina Pizzigoni, e mi dice che era un'insegnante che ha creato una sua scuola a Milano e le sue figlie vanno in quella scuola. Allora ho detto: la voglio andare a visitare. Era luglio, l'anno scorso. Sono entrata da un cancello in questa scuola, in un grande giardino, e la scuola si chiama Rinnovata ed era una contemporanea proprio della Montessori. E una signora che insegna lì che si chiama Maria ed estate insegna agli stranieri l'italiano, mi ha raccontato una storia bellissima che non sapevo. E dico, ma non una via a Milano, 100 vie la Giuseppina Pizzigoni bisognerebbe dedicare, perché era una storia bellissima, la volete sentire? Mm-hmm. Giuseppina Pizzigoni avrebbe voluto fare l'attrice, ma era di una famiglia ricca, di Saronno, che ai tempi fare l'attrice era una professione disdicevole. Non è che ora sia cambiato tanto, se poi vi racconto quello che mi dice il mio fratello a me, vabbè. Allora la obbligano a fare la maestrina nelle scuole del comune di Milano. Lei fa la maestrina, ma era un po' strana, diversa dalle altre maestre, che addirittura d'estate andava a viaggiare da sola. Era nata nel 1870, andava a viaggiare da sola in Francia, in Germania, a vedere le scuole nel bosco, le scuole negli orti. E quando torna in Italia decide di creare una sua scuola. Una scuola dove maestra è l'esperienza, scuola è il mondo e tempio è la natura. Una scuola in giardino, una scuola dove la matematica non si impara sui quaderni, ma nell'orto, si impara facendo le file d'insalata per studiare le tabelline, si impara facendo il perimetro nelle aiuole. Lei vuole costruire questa scuola, ma a Milano, nel primo dopoguerra, non c'erano i soldi, nessuno le dava retta, tutti pensavano che fosse una matta. Allora lei la scuola la disegna, mattone per mattone, con tutte le finestre sul giardino, e l'orto, e il bosco. Poi va dal ministro della cultura, dell'istruzione, dell'epoca, e parla del suo progetto, della sua scuola, e lui dice, un'idea bellissima, ma non ci sono i soldi. Non è che poi siano cambiate tanto le cose. Allora lei, per un anno, tutte le domeniche, fa dei tè a casa delle persone amiche di famiglia, dai Bisleri, dai Mondadori, e parla di questo suo progetto. Va lì con una valigia e nella valigia raccoglie i soldi per creare questo suo progetto. Raccoglie ai tempi una cifra pari a 10 milioni di lire, che era tantissimo. Poi, esattamente dopo un anno, torna dal ministro dell'istruzione dell'epoca e dice, questa è la mia idea, questa è la mia scuola. Lui dice, la farei volentieri, ma c'è un problema, non ci sono i soldi. E lei tira fuori questa valigia e dice, i soldi ci sono, facciamola la scuola. Un primo crowdfunding, e questa scuola c'è, è a Milano, si chiama Rinnovata Pizzigoni, ed è una scuola dove tutto viene studiato attraverso l'esperienza. Nessuno di voi la conosceva questa storia, no, della Pizzigoni. Ecco, allora io immagino se ci fossero più vie. Io l'ho conosciuta tramite una via a Milano dedicata a Giuseppina Pizzigoni, è stata una grande pedagogista contemporanea della Montessori. E quindi raccontando queste storie, leggendo i nomi delle vie, si può arrivare a conoscere storie che altrimenti nessuno potrebbe arrivare a conoscere. E un'ultima storia, io vado a spinning, qualcuno di voi va a spinning? Vai a spinning? No, ma qui... Io vado a Milano a spinning, la mia palestra, Get Fit. E no, per tenermi, no, un po' in forma, poi perché... Generalmente ti viene fame, mangi, poi tanto vai in palestra e bruci, poi però ti riviene fame, ti rimangi, poi vai in palestra e ribruci, no? Insomma, è un circolo vizioso. Insomma, io vado in palestra e la mia insegnante di spinning, Irene, lei è una forte, sportiva, sempre il Giro d'Italia. Io il Giro d'Italia, sì, ci giocavo col mio fratello in spiaggia, ero l'unica femmina. Il mio sedere era ideale per fare la pista, sai, quello con le palline, mi prendeva per i piedi e girava, ci sedeva la pista migliore di tutti alle saline. Però, insomma, la mia insegnante di spinning, che poi pedali e sudi, fatica, emozione, salita, fate lo spinning perché bruci, si suda, te l'hai fatto spinning, si suda, bruci. Insomma, quando si va all'uscita della palestra, al desk, Dovevamo andarci a fare un aperitivo quel giorno, si è detto, con Irene che dice di Bologna, studia a Milano. Ci siamo scambiati le tesserine, a lei gli arriva la mia, a me la sua. Elena Guerrini, Irene Imperatore, lei legge Elena Guerrini. Dice, ma te sei Elena Guerrini? Dico, sì, pensavo mi avesse visto tipo in qualche film. Dico, sì, sono Elena Guerrini, sono attrice. Dice, no, ma Elena Guerrini era la mia babysitter a Bologna, nel 1997. Era una che vestiva di rosa e mi leggeva le favole. E dico, ma ero io, Irene, ma capito, era una bimbina. Io la guardavo, poi è diventata grande, ha 25 anni, insegna spinning, poi però lavora in uno studio d'architettura, ma non la pagano, fa la grafica, ma non la pagano, e però poi la sera insegna spinning, insomma lì la pagano poco, però gli piace. Allora, madonna Irene, ma che bello che ci sei incontrato dopo 20 anni, che non me lo sarei mai immaginato. Allora si esce e lei dice, porca paletta, mi hanno rubato Alfonsina. Dico, Alfonsina chi? Alfonsina la mia bicicletta. Dico, Alfonsina, io la mia la chiamo Graziella, la tua Alfonsina. E mi racconta una storia bellissima mentre andiamo a farci un aperitivo in Via De Amicis. La storia che mi racconta è la storia di Alfonsina Strada, la conoscete? No. Anche Alfonsina Strada bisognerebbe dedicargli una via, anzi una strada secondo me, perché era una donna, l'unica donna che nel 1924 ha corso il Giro d'Italia, fra tutti uomini. E io non lo sapevo, allora gli ho detto, ma Irene, ma che bella storia. E lei dice, sì, guarda, era nata Alfonsina Strada in una famiglia poverissima, a Budrio, vicino Bologna. Erano 7 figli, ma erano poveri, poveri, poveri, che 7 figli avevano solo 5 paia di scarpe. Chi si svegliava prima se le metteva. Alfonsina, che dormiva di più, andava sempre scalza. E mi diceva, guarda, questa ragazza era nata in una famiglia così povera che non erano comunisti, erano poveri, che il suo babbo non faceva mai manco il pugno chiuso perché ci aveva troppi calli nelle mani da quanto erano poveri. E come ha fatto questa così povera a diventare ciclista, fa il Giro d'Italia, chiedo io, mentre andiamo verso la gelateria, quella in Via De Amicis, poi dopo andiamo a farci un aperitivo rinforzato in piazza 24 Maggio. E lei mi racconta questa storia, mi dice che questa ragazza un giorno vede una bicicletta. Il medico del paese aveva regalato al padre di Alfonsina, che faceva il bracciante, una bicicletta per dire così poi non ti bruci la testa nel campo quando vai al lavoro. Alfonsina vede questa bicicletta, vecchia, arrugginita, ci sale sopra coi piedi scalzi, pigia i piedi come quando si pigia l'uva per fare il vino e va via, va via. Arriva a Budrio, Bologna, non aveva mai visto una bicicletta, inizia a correre, fa le gare coi maschi e vince, vince sempre. A casa diceva che andava in chiesa o che andava in piazza. Una volta vince addirittura un maiale alle gare e lo porta sulla bicicletta a casa. Non si metteva le gonne, si metteva i pantaloni del padre legati alla zuava, alle ginocchia. Una volta il prete del paese la incontra e dice, signorina, dovrebbe mettere le gonne, siete donne, con i pantaloni corti inducete in tentazione. E lei dice, padre, le gonne stanno meglio a lei che a me. E prosegue, e arriva a Bologna, e poi a Torino, e nel 1924 è l'unica donna a partecipare al Giro d'Italia, in mezzo agli uomini. Ma nemmeno negli annali c'è scritto, perché si sono sbagliati, hanno scritto Alfonsin Strada. E tutti pensavano che fosse un uomo. E lei correva, correva, correva e arrivava, ma sempre ultima. Arrivava sempre ultima perché tutte le donne nel 1924 che vedevano lei correre uscivano in strada e la fermavano e dicevano, Alfonsina, vai, la tua corsa è la nostra corsa. E lei si fermava a firmare cartoline, autografi, a parlare, e arrivava sempre ultima, ma arrivava. Anche perché invece gli uomini dicevano, non puoi sfidare gli uomini, vai a casa, troia. E lei arrivava, arrivava sempre tardi, ma arrivava. E si classificò nel 1924 al Giro d'Italia. Poi andò in Russia, andò a Parigi, dove andava in bicicletta al circo. E allora io dico, ma a Milano bisognerebbe dedicargliela una via, una strada. E nel frattempo mi racconta che poi, una volta anziana, Alfonsina apre un negozio a Milano di biciclette, dove ripara le biciclette per le partigiane, dove... Allora, io dico, ma scusa, adesso siamo arrivati in Piazzale Cadosa, a Milano. E lei mi dice, ma pensa che Alfonsina Strada vinse il Giro di Lombardia proprio il giorno in cui l'Italia perse... Io dissi, ma perché c'è Piazzale Cadorna e non via Alfonsina Strada? E allora, mentre siamo lì, accendiamo il cellulare, arriviamo alla mail e gli scriviamo la mail al sindaco di Milano. E proprio gli si scrive, caro sindaco, io e Irene siamo qui perché vorremmo chiedere di poter dedicare una via ad Alfonsina Strada. È stata una ciclista. E la cosa pazzesca è che a Milano, esattamente dopo un anno, hanno dedicato una via a Alfonsina Strada. E questo è quello che ci ha insegnato Maria Piercolini con il suo operato. Ci hanno insegnato, questo è un grande strumento di democrazia. Perché in qualsiasi posto puoi fotografare, puoi dire una via dedicata a una donna, una strada, puoi scrivere una mail, puoi scrivere un Twitter a chiunque, puoi... E questa è stata l'altra storia. In ogni racconto vorrei raccontare tre storie. In questo caso c'è stata Santa Marina, Alfonsina Strada e la Pizzigoni. Vorrei che anche ogni persona che viene a seguire la narrazione portasse poi nel suo comune questo concetto, questo problema, si chiedesse quante sono le vie o le strade dedicate alle donne nella propria città. E quando io penso a chi vorrei dedicare una via, una strada, ecco, io penso alla mia mamma. Penso alla mia mamma, io gliela vorrei dedicare, alla mia mamma, perché ha fatto la maestra a tante generazioni e che... Però poi non lo so, perché la mia mamma aveva un cognome strano, Crisanaz, allora tutti si sbaglierebbero a scrivere l'indirizzo. E allora penso... Voi ci avete mai pensato a come si sono conosciuti i vostri genitori? Gliel'avete chiesto? A me queste storie mi commuovono. Io quando l'ho chiesto alla mia mamma, la mia mamma mi ha detto che ha conosciuto il mio babbo in fila per le supplenze, perché lei era maestra e lui era maestro. E la mia mamma, lei aveva capelli biondi, se li raccoglieva sempre così legati con una penna. E il mio babbo si avvicina e gli dice, bella, lo vuoi un elastico? Lei lo guarda e gli dice, bella, lo dice la tua sorella, io sono la maestra Maria Crisanaz. E lui la guarda e dice, sì, alla mia sorella glielo dico sempre che è bella perché c'ha gli occhi azzurri proprio come lei. Lei la guarda e dice, comunque io sono la maestra Maria Crisanaz. Lui la guarda, gli dà l'elastico, lei si lega i capelli con l'elastico e dice, però io vorrei che lei diventasse la maestra Guerrini, perché allora il nome si prendeva dal marito quando ci si sposava, prima degli anni 70. E poi vabbè, poi sono nata io, il mio fratello, e poi mi ricordo della mia mamma che anche lei si metteva a leggere, a studiare quei libri sempre accanto alla lavatrice. Dopo che avevamo cenato, noi eravamo a letto, lei attaccava la lavatrice, programma 4, aveva tutti i libri sopra la lavatrice, correggeva i compiti, studiava in una seggiolina lì accanto alla lavatrice. Ecco, io una via la vorrei dedicare alla mia mamma. E poi lei mi raccontava che quando si sono conosciuti col mio babbo, il mio babbo aveva la 500 e andavano all'università a Urbino e in macchina ascoltavano sempre Il cielo in una stanza, quella di Mina, quella del 69. Qualcuno me la può mettere da internet? Anzi, se ce l'avete, la mettiamo tutti insieme. Voglio sentire l'effetto che fa se la mettiamo tutti insieme. La metto anch'io. Quella con la copertina gialla. Vi do il via e si parte tutti insieme, come la rivoluzione. Questo è lo spettacolo Vie delle donne, di e con Elena Guerrini. L'agenda della settimana teatrale. Con Elena Guerrini, la curatrice della 12ª edizione di Avveglia, Teatro del Baratto, a Manciano, provincia di Grosseto, dal 13 al 16 settembre. Ben trovata Elena. Ciao, ciao, ben trovato a te e a voi ascoltatori. Come sempre spieghiamo a chi non conoscesse cos'è questo Avveglia.

Raccontaci, intanto diamo una definizione di Roma Comic Off. Beh, Roma Comic Off è un festival di teatro off rivolto al comico soprattutto, che praticamente viene realizzato in diversi spazi della capitale, non tutti rigorosamente off, perché ci sono anche teatri più importanti che partecipano, e ha l'intenzione, come dire, di tentare di fare l'ascensore tra le compagnie start-up, nascenti, anche amatoriali di buon livello e quant'altro, verso teatri un po' più importanti, roba che un po' si è persa. Quanti sono gli spazi nel complesso? Quest'anno sono 10 teatri. Beh. Abbiamo 10 teatri e 12 sale. Mm-hmm. 55 compagnie in concorso. Il Satira Festival, che sono 5 spettacoli che si fanno fra il Teatro Marconi e il Teatro Portaportese, dove ci sta Marco Falaguasta, ci sta Sparacino, Fabbri, Becchi Manzi, Elio Grifò. Tutti spettacoli molto interessanti di satira. Sì, sì. E quanti sono nel complesso gli spettacoli? 60 sono, con tutto. Sì, sì, sì. Ecco. 60 spettacoli, come cose, in 10 giorni. Sì. Poi c'è la premiazione che avverrà il 30 di settembre. Ormai si sa, è aperta al pubblico gratuitamente, al Teatro dei Servi, chi vuole venire. Facciamo la premiazione, che è una serata entusiasmante, perché se si vuole, vota il pubblico, votano i direttori dei teatri, dei critici, quindi la composizione del voto è molto complessa, il vincitore è sempre molto incerto, si vincono soldi in denaro, poi si vince anche la partecipazione a stagioni teatrali come il Teatro dei Servi, il Teatro Marconi, insomma sono teatri importanti, quindi stanno tutti là e nessuno sa chi ha vinto, fino a quando non leggiamo le buste e ci sta un'emozione palpabile, una cosa molto forte. Roberto, com'era nato tutto? Beh, è nato perché Paolo Gatti un giorno mi ha chiamato 4 anni fa, dice: ma ce l'hai ancora quel progetto del Roma Festival di Teatro Off? E dico io sì, però come lo facciamo? Dice: ma facciamo lo stesso anche senza soldi. Ma è invogliato a farlo Paolo, che è ancora, diciamo, il primo sostenitore insieme a Falaguasta, Marco, che c'è il Teatro Testaccio, anche lui. Abbiamo cominciato a fare questa cosa sganciata da qualsiasi logica di finanziamento, perché l'idea è appunto che anche senza soldi si può continuare a fare, sì. Mentre, cioè autofinanziandoci tutti sostanzialmente, mentre quest'anno qua ho trovato dei soldi per fare la pubblicità, infatti per Roma si vedranno i cartelloni Roma Comic Off e Satira Festival, però anche se non ci fossero non lo faremmo lo stesso, ecco. Un bilancio delle prime 3 edizioni, che direzione sta prendendo? Ottimo, vedo che ci stanno molte compagnie, che alcune si sono proprio avviate a diventare delle compagnie di produzione, sfornano spettacoli continuamente, una grande creatività, e poi hanno fatto tournée nazionale addirittura, alcune hanno trovato gente che li ha sostenuti economicamente con delle produzioni, lo fanno in teatri più importanti, insomma, ci sono delle crescite evidenti di alcune compagnie, altre un po' meno, ma insomma è normale nella mucchio, no? C'è quello che può andare meglio e quello che può andare peggio. La cosa interessante è però che stanno creando e nascono delle realtà, e di questo sono felicissimo. Mm-hmm. Roberto, visto insomma il materiale con cui hai a che fare, anche l'esperienza che ti porti dietro, come si sta trasformando la comicità? Ma la comicità, guarda, non si trasforma, ci sono 4 cose che fanno ridere dall'uomo primitivo ad oggi, sono quelle 4 che fanno ridere, le chiavi sono sempre le stesse, quando vedi c'è gente che si inventa nuovi modi per far ridere, generalmente non ci riesce, non far ridere. Quindi il Vincitore una volta diceva: si sono inventati il comico che non fa ridere nessuno. E ha ragione, credo, riferendo sia a un noto comico televisivo che leggo su Facebook, ogni volta che lo vedono tutti concordiamo che non fa ridere nessuno. Quindi no, la comicità è quella, è difficile, poi il linguaggio magari può cambiare, possono cambiare il costume, che ne so, Lenny Bruce, Paolaccio l'hanno messo in croce per delle cose che oggi farebbero così, sono da educanda, sì. Non cambiano. Ok. Com'è organizzata una giornata tipo, così per orientarci? Le giornate sono organizzate dal 13 al 23, tutti i giorni, in ogni teatro del festival, o più o meno, ci sta uno spettacolo che partecipa al festival. Okay. Una cosa interessante è che può votare, perché si decreta la vittoria dello spettacolo, può votare solo chi paga il biglietto intero, 10 euro più 2 di tessera, su teatri dove generalmente c'è la tessera associativa. Quindi si paga 10 euro più 2 di tessera e puoi votare, ti dà la scheda per votare. Se anche la compagnia, perché se un amico ti lascia il ridotto di 10 euro, poi non so che devi ridurre, ma mettiamo che te ne fa pagare 5, non puoi votare. Se vuoi però alla fine dello spettacolo ti viene voglia di votare, vai a dare la differenza, voti, perché soltanto chi paga ha il diritto a esprimere un'opinione, chi non paga no, non ce l'ha. Allora, ricordiamo la quarta edizione di Roma Comic Off dal 13 al 23 settembre in vari teatri e spazi della capitale. Un saluto e un ringraziamento a Roberto D'Alessandro. Roberto, in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti web per seguire? Sì, www.romacomicoff.it, abbiamo la pagina Instagram, pagina Facebook, sono anche, c'è la pagina del Satira Festival. All'interno del Roma Comic Off del sito ci sta anche tutto sul Satira Festival, e dico rapidamente i teatri che partecipano. Sì. Sono il Petrolini, il Testaccio, il Trastevere, il Portaportete, il Marconi, il Teatro dei Servi, l'Agorà, lo Spazio, il Teatro Pordinona e il Teatro dei Documenti. Sono 10 spazi, 12 sale in tutto, le compagnie sono 55, si ride, sono moltissimi spettacoli da vedere. Non perdetevi questa kermesse settembrina che riapre le danze del teatro romano, oramai da 4 anni, Roma Comic Off, ridere. Roberto, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie tante Federico, grazie a tutti, ciao. Ciao. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana teatrale. E Simone, ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno. Dici. Allora, questa è una settimana in cui pian piano si ricomincia con le stagioni teatrali che un po' anticipano alcune aperture e poi insomma, dei progetti speciali, e poi comunque ci sono dei festival che pian piano che stanno già dalla scorsa settimana mantenendo poi l'attenzione teatrale della città. Dunque, allora, intanto ricomincerei dal Teatro Vascello, perché ci sono 3 importanti spettacoli di danza che aprono la stagione, e Spellbound apre con 12, 13 e 14 questo Collapse, la prima assoluta, con la direzione, la coreografia di Francesco Sgro e con le delle musiche originali di Pino Basile. Si tratta di un lavoro che anticipa il resto degli spettacoli di cui però parleremo le settimane successive, ed è all'interno di questa apertura che il Teatro Vascello sta sempre più portando portando al mondo della danza. Collapse è una storia semplice, sono 5 persone, 35 palline, 5 clave e una ruota. La musica unisce, sottolinea e accompagna un linguaggio fatto di movimento e giocoleria. Quindi per chi ama la giocoleria, Collapse è lo spettacolo giusto. 12, 13, 14, ore 21 al Teatro Vascello. Poi è l'occasione anche per parlare di una provincia vicina, che è quella di Viterbo, perché c'è ancora Quartieri dell'Arte, e Quartieri dell'Arte per questa settimana presenta Pastorale Contemporanea numero 1 a Civita di Bagnoregio, Piazza San Donato, dal 14 settembre fino al 20. Si tratta di una performance drammaturgica dei fratelli Brezhnikov e di Gianmaria Cervo, direttore di Quartieri dell'Arte. È un ibrido tra una performance e un laboratorio di scrittura, appunto in questa piazza. Ci si troverà a parlare e a scrivere di vari argomenti, una serie sull'arte italiana, un testo sulle fatiche di Ercole e tanto tanto altro. I turisti e gli spettatori si recheranno apposta sul luogo e osserveranno ma non potranno interagire con loro a meno che non interpellati dai drammaturghi. Quindi è un progetto un po' particolare, 14-20 settembre, pastorale contemporanea numero 1 a Civita di Bagnoregio per quartieri dell'arte. Andiamo avanti e ti segnalo, ma intanto giovedì 13 settembre però alle ore 12 ci sarà una conferenza stampa per il prossimo spettacolo che apre poi la stagione del Teatro di Roma, Il Revisore, una versione di Gogol con la regia di Roberto Sturua. Sarà appunto alle ore 12 al Teatro Argentina, per chi volesse approfondire, e poi andiamo a vedere lo spettacolo sicuramente. Dunque, intanto è l'occasione per ritornare a parlare di Short Theater. Ora, il festival, sì, ne parla Fabrizio Arcuri, ed è ormai davanti agli occhi di tutti, però a me fa piacere ricordare che ci sono un po' di cose particolari. Ieri è stata l'occasione per vedere Panorama Roma, che è stata un'apertura su 9 compagnie del territorio romano che hanno presentato degli studi per spettacoli che verranno, e a ognuno degli studi è succeduto un incontro di approfondimento che ha avuto modo, insomma, di allargare il campo anche su ciò che riguarda la situazione delle politiche culturali di questa città. Quindi Short Theater è da non perdere d'occhio per tantissimi appuntamenti. Io ti dico allora che alcuni spettacoli mi fa piacere segnalarli a parte, e ti parlo del lavoro intanto di Muta Imago, che presenta Combattimento, questo nuovo progetto firmato dalla compagnia romana, ma ormai compagnia internazionale. Sarà 13 e 14 settembre negli spazi della Pelanda. Indaga il concetto di amore come guerra, la seduzione come conquista, il desiderio come abbandono di uno stato di tranquillità per entrare in una dimensione di mistero e di perdita di sé. Questo attraverserà poi il pensiero attorno ai lavori di Nijinsky fino ad arrivare a Sergio Leone, quindi molto particolari i riferimenti per questo lavoro. Muta Imago quindi sarà in scena a Short Theater 13 e 14 settembre alle ore 22. Altro appuntamento che ho piacere di segnalare senza dubbio è il lavoro di Teatro Sotterraneo, anzi del Sotterraneo, perché non c'è più teatro davanti, e sarà in scena con Overload 14 e 15 settembre, sempre alla Pelanda. È uno spettacolo che io ho visto ed è molto molto divertente, interessante, molto intelligente il lavoro fatto dalla compagnia di Firenze sulla pensione, che è una sorta di forma di alienazione. Il punto è saper scegliere in cosa alienarsi. Questo è ciò che racconterà Teatro Sotterraneo con la sua performance a Short Theater. Dunque, 11 settembre, che 11 settembre alle ore 19, Roberto Latini presenta 6 e dunque perché si fa meraviglia di noi. Il lavoro alle ore 19 sui 6 personaggi, un lavoro che anche questo ho visto ed è molto importante non perdere l'occasione di andarlo a vedere. E purtroppo è data unica, io spero ce ne saranno durante la stagione per vedere questo lavoro di Roberto Latini, senza Roberto Latini in scena, ma con un attore straordinario che è Pier Giuseppe Di Tanno, che interpreta in se stesso una riscrittura dei 6 personaggi di Pirandello. 11 settembre alle ore 19. Ancora qualcosa? Sì, sicuramente. 12 e 13 settembre per vedere Sanctuary, il lavoro firmato da Carlos Casas, artista spagnolo, che è già stato presentato in anteprima all'Accademia di Spagna, e sarà in realtà la proiezione di un film ispirato al mito del cimitero degli elefanti. Sanctuary è un'immensa esperienza cinematografica dal vivo, ecco, questa è la cosa un po' particolare, che riprende gli argomenti di estinzione, di comunicazione tra specie e immaginario, e segue appunto un vecchio elefante e la sua guida nel loro viaggio attraverso la giungla in Sri Lanka. Molto interessante. Il 12 settembre alle ore 21:30 negli spazi della Pelanda. E questo, Federico, per ciò che riguarda Short Theater, io direi che è abbastanza. Mi preme ancora forse segnalarti qualcosa in più. Al Teatro Ruota Libera, scusa, Teatro Centrale Prenestre, Ruota Libera presenta questo Festival Internazionale del Circo Sociale. 14, 15 e 16 ci saranno 3 compagnie, l'Ophelion House, Annie Cooper e le compagnie Le Stroghe, credo sì, Le Stroghe, così è scritto, con 3 spettacoli di circo, gioielleria, tutto dedicato ai bambini, quindi è una cosa molto importante per chi vuole dedicarsi ai più piccoli. E questo te lo dico, è tutto. È tutto. Perfetto, Simone, un abbraccio, ci si sente per la prossima. A presto, ciao! Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.